Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di economia, parliamo di finanza, parliamo soprattutto dei nostri soldi e lo facciamo con Leopoldo Gasparro. Buonasera Gasparro. Buonasera a te Gianfranco, ben ritrovato. Leopoldo Gasparro è un giornalista, cura e conduce su TGCOM 24 Mercati Che Fare, trasmissione che parla appunto di gestione dei risparmi, collabora col giornale, con il Sole 24 Ore, ha scritto numerosi libri, tra cui libri dedicati anche al risparmio come Rischio Banche dell'anno scorso, e ora è in libreria con questo libro che si intitola Soldi Sicuri, edito da Sperling e Cuff. Come investire al meglio e ridare valore ai nostri risparmi. Ecco, è un progetto un po' ambizioso, Gasparro. Ma guarda Gianfranco, noi viviamo a contatto con i nostri denari da quando nasciamo fino a quando lasciamo questa terra, per cui avere un minimo di coerenza nell'approcciare i progetti economici, perché di progetti economici poi è fatta anche la nostra vita, credo sia indispensabile. Spesso e volentieri noi viviamo di contingenze invece più che di progetti, anche nel discorso economico, quindi corriamo dietro alle paure per le banche che falliscono, corriamo dietro ai mercati che salgono o crescono e tante volte perdiamo di vista le vere linee guida che dovrebbero, certo, aiutarci a gestire i nostri risparmi. Ambizioso no, perché sarebbe ambizioso se noi facessimo delle previsioni sui mercati finanziari, invece questo libro cerca proprio di spiegare qual è l'approccio corretto al mondo del risparmio a prescindere da quello che avviene sui mercati finanziari. E quindi non è un libro di previsioni che sono l'esatto opposto di quello che si dovrebbe fare. Anzi, io dico, diffidate da chiunque faccia delle previsioni con i vostri soldi. Io caccerei fuori da casa mia chiunque venga lì a dirmi cosa potrebbe accadere domani. Nessuno lo sa, nessuno può prevederlo, neanche noi in questo istante. Se lo sapessimo probabilmente tu Gianfranco non faresti trasmissioni radiofoniche, non saresti stato il direttore del Sole 24 Ore, io non avrei mai scritto libri e fatto trasmissioni televisive, proprio perché avremmo potuto, certo, prevedendo il futuro, essere tranquillamente su un'isoletta nel Pacifico a goderci il frutto di tutto quello che riuscivamo a guadagnare soltanto prevedendo il domani. Infatti, chi può essere certo di quello che succede non dà queste certezze agli altri, ma le tiene per sé. Quindi è molto meglio essere certi almeno dei comportamenti che si devono avere. E questo libro è importante anche perché tiene conto poi dei grandi cambiamenti che ci sono. In fondo, il grande cambiamento di questo periodo è che sono crollate alcune certezze del passato. Da una parte i tassi di interesse, che non sono più quelli di una volta, ma anche qui bisogna leggere bene anche i tassi di interesse, la fiducia delle banche che non è più quella di una volta, che anche qui però bisogna sapere guardare alla banca e che cosa fare con le banche. Quindi in questo ambito, in questo ambiente, in questo periodo di grandi cambiamenti, avere una bussola almeno su che cosa fare, su quali strumenti utilizzare può essere forse la cosa più importante, Leopoldo Gasparro. È quello che ho cercato di fare, perché prima tu giustamente dicevi sono crollati i riferimenti essenziali dei risparmiatori italiani. Prima dire ho i soldi in banca significava dire li tengo in cassaforte, quindi sono tranquillo. Oggi questa tranquillità non ce l'abbiamo più, abbiamo visto quante banche sono sparite nel nostro paese tra il 2015 e l'estate che abbiamo vissuto. Abbiamo visto quello che sta succedendo all'estero, quello che è successo negli Stati Uniti, quello che è successo in Spagna. Insomma, il primo approccio che dobbiamo avere nel momento in cui gestiamo il risparmio è quello di sapere identificare una banca solida. Questo è il primo aspetto. E quindi, altrimenti noi siamo chiamati a partecipare in solido alle perdite della banca a cui abbiamo prestato o affidato i nostri risparmi. Secondo aspetto, i tassi di interesse. Noi siamo cresciuti con i nostri genitori che hanno investito per anni in titoli di Stato, era semplice, poco rischioso, era anzi sotto certi punti di vista non era rischioso affatto, era molto redditizio, per cui le nostre famiglie definite bot people hanno potuto accantonare fino a 4.000 miliardi di risparmi, 4.300 miliardi di risparmi, una somma straordinaria tra le più alte privatamente nel mondo, quindi questo è un dato di fatto. Però oggi non abbiamo più remunerazione dai nostri risparmi. Allora dobbiamo saper guardare a quello che dicevo prima, ai progetti, perché noi dobbiamo identificare le strategie di risparmio in funzione di quello che vogliamo ottenere. Non possiamo curare tutte le malattie che ci dovessero arrivare nella vita con la stessa medicina, dobbiamo curarle con medicine differenti o con professionisti differenti. E la prima regola è quella che oggi il fai da te è completamente finito. Quello che mia madre poteva fare andando in banca, rinnovando titoli a scadenze diverse, oggi non lo si può fare più, perché altrimenti sappiamo benissimo, come giustamente dicevi tu prima, che a 10 anni un titolo di Stato oggi non supera l'1,5% lordo, un titolo di Stato italiano. Addirittura, se andiamo su titoli di paesi più solidi del nostro, abbiamo tassi di interesse negativi. Insomma, siamo entrati in una fase di investimento veramente complicata, che solo grazie a chi conosce queste argomentazioni e riesce a legare quelli che sono i nostri progetti di investimento. Io metto da parte i soldi per i miei figli, allora scelgo un piano di risparmio di un certo tipo, devo costruire la mia casa, per cui anche la gestione del credito ha bisogno di consulenza. Ecco, tutto rientra nella consulenza, dall'individuare la banca giusta, il progetto di vita giusto, e nel progetto di vita giusto economico io devo individuare lo strumento finanziario ideale per quel progetto di vita. E poi io racconto anche nel libro, con degli aneddoti, perché ho cercato di renderlo il più semplice possibile. Non è un trattato di economia, come avrai visto, ma è un libro che racconta anche storie di vita, perché di storie di vita dobbiamo parlare quando ci occupiamo di denaro. Dicevo, attraverso gli aneddoti ho raccontato proprio come molti di questi progetti possono essere in qualche modo affrontati, sviluppati, gestiti e raggiunti. Ecco, infatti uno dei pregi di questo libro è il fatto che si racconta l'economia attraverso fatti, personaggi, vicende, incontri, elementi appunto di giudizio della nostra vita quotidiana, che ci fa vedere come la realtà sia appunto un po' uguale per tutti e come tutti abbiamo di fronte gli stessi problemi, sia che possiamo risparmiare 1.000 euro, sia che possiamo risparmiare, fortunati coloro che lo fanno, più di milioni di euro. Ecco, però c'è un elemento che è quello certamente della specializzazione, del non fidarsi del fai da te, ma c'è anche appunto collegato a questo la necessità di diversificare, di portare appunto in ogni modo, anche all'interno di singoli progetti, una certa diversificazione. È questa in fondo la ciambella di salvataggio che possiamo avere di fronte a mercati che sono sempre più fragili, più volubili, più incerti, più legati a fatti momentanei, in fondo almeno così ci paiono. Diversificare in fondo riduce i rischi che comunque sono un elemento che è ineliminabile all'interno del mercato finanziario, Gasparro. Guarda, Gianfranco, tu sfondi una porta aperta in questa direzione, perché qualche giorno fa, qualche settimana fa, ho fatto un articolo in cui raccontavo proprio la percentuale di rischio che c'è nel risparmio degli italiani proprio per la concentrazione in alcuni investimenti. Prima citavo il numero di 4.300 miliardi che sono le somme che siamo riusciti a accantonare in generazioni nel nostro paese. Ebbene, di questi denari, 1.400 sono sui conti correnti in questo momento, quindi concentrazione di rischio bancario, tornando a quello che dicevamo prima sul bail-in. E in più altri 300 miliardi sono detenuti quasi tutti in azioni e obbligazioni di banche. Allora, se su 4.000 miliardi e rotti noi ne abbiamo la metà che sono concentrati sul rischio banche italiane, capiamo bene come il nostro risparmio non sia gestito correttamente già dal punto di vista del rischio. Bisognerebbe guardare a molti più titoli, a strumenti finanziari che automaticamente, come i fondi comuni di investimento ad esempio, vanno a diversificare su tanti titoli e attraverso una gestione riescono a fare in modo da ottenere delle remunerazioni sicuramente più importanti. Poi va sfatato anche un mito: io non capisco perché in questo periodo si parli tantissimo delle commissioni dei servizi finanziari. Io dico, se qualcosa funziona è giusto anche che la si paghi. Certo che se noi invece corriamo dietro al rendimento maledetto e subito, come lo definisco io, e non capiamo che invece c'è dietro una progettualità diversa, anche una commissione dello 0, può darci fastidio. Invece il prodotto finanziario ideale per noi e il consulente finanziario che ci aiuti a gestirlo nel tempo sono un elemento indispensabile, perché io qualche mese fa ho intervistato proprio per il Sole 24 Ore uno dei premi Nobel dell'economia, il premio Nobel per l'economia del 2002, Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, pur essendo stato premio Nobel per l'economia, non si occupa di economia, ma è uno psicologo, come tu ben saprai, e nelle sue teorie ha inserito una nuova scienza, che è quella della finanza comportamentale. Certo. E lui nel parlare con me mi disse: guarda, ti faccio un esempio, è molto più facile trovare un unicorno per strada che un risparmiatore razionale. Allora, il nostro modo di porci emotivamente nei confronti del nostro risparmio ci porta a compiere delle scelte illogiche anche nel momento in cui abbiamo intrapreso una strada. È come se noi stessimo andando da Roma a Milano e a un certo punto, solo perché troviamo una salita, decidiamo di tornare indietro a metà viaggio, bruciando tutto quello che abbiamo fatto fino a quel momento. Bene, io quando parlo di consulenza non parlo solo di consulenza nello scegliere un prodotto, ma parlo di consulenza anche nell'esserci a fianco, nel gestire quel prodotto, nel permetterci di spiegarci che cosa sta succedendo in quel momento. Faccio anche un altro aneddoto, se mi consenti, se abbiamo il tempo. 30 secondi. Che è quello dell'aereo. Quando salgo in aereo, io so che viaggio sto per fare, però a bordo dei piloti, degli assistenti di volo, che mi spiegano costantemente come superare anche le perturbazioni del viaggio. E io sono convinto, in questo caso, avendo vicino a me delle persone che mi aiutano a raggiungere la mia meta, il mio obiettivo, sono convinto di poter arrivare fino all'arrivo dove avevo previsto di arrivare. Ecco, grazie Gasparo, mi sembra che hai dato un'idea proprio di questo libro, oltre che averlo scritto, anche di questo libro, che è un po' un'istruzione per l'uso, per guardare un po' con distacco anche al nostro risparmio, senza troppo coinvolgimento emotivo, anche se dobbiamo comunque guardare con passione, perché sono cose nostre, frutto del nostro lavoro, ma qualcosa che dobbiamo anche difendere appunto dall'emotività. E questo libro ci aiuta a guardare appunto alla realtà, a capire come va la realtà, a capire anche quali sono eventuali nuove forme di risparmio. Uno degli ultimi capitoli è dedicato per esempio ai piani di risparmio individuali, ma di questo il tempo non ci impedisce di parlare. Io posso solo ringraziare Leopoldo Gasparo di essere stato con noi questa sera, ricordare il suo libro Soldi sicuri, come investire al meglio e ridare valore ai nostri risparmi. L'editore Sperling e Kuffer, sono 192 pagine per 16,90 euro ed è un investimento che vale la pena di fare. Grazie anche a quanti ci hanno ascoltato, a Peter Bescapè in regia, a Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.